Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È il 9 novembre 1989. È uno dei giorni più importanti della storia contemporanea. Sono le 19:30. La folla che state sentendo in sottofondo è la popolazione di Berlino. Alle 18:53, infatti, Günter Schabowski, ministro della propaganda della Repubblica Democratica Tedesca, la Germania orientale, ha rilasciato una storica dichiarazione all'ANSA. Per accontentare i nostri alleati è stata presa la decisione di aprire i posti di blocco. Se sono stato informato correttamente, quest'ordine diventa efficace immediatamente. In altre parole, dopo quasi 30 anni di divisione, tornano possibili i passaggi da est a ovest. È caduto il muro di Berlino. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. È bene sottolineare la portata storica di un simile evento. Il muro di protezione antifascista, come veniva chiamato ad est, era un muro di cemento armato costruito nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 1961 dalle autorità della Germania orientale, a circondare la parte ovest della città sotto il controllo e l'influenza della NATO. Con questo gesto, il rigido regime filo-sovietico della Germania dell'Est, di fatto, rende la parte ovest della metropoli un'isola in mezzo a una nazione straniera e ostile. E diventa un simbolo, il simbolo di una nazione divisa, di un mondo spaccato in due, l'immagine stessa della cortina di ferro. Il muro è lungo 155 chilometri. Dopo la prima edificazione vengono apportate delle modifiche, ne viene costruito un secondo, più interno, andando a determinare una sorta di terra di nessuno, una zona che verrà tragicamente ribattezzata la Striscia della Morte. Il perché è fin troppo chiaro. Saranno circa 200 complessivamente le persone falciate da raffiche di mitra mentre tentano di superare il muro. Cittadini della Germania comunista che tentano di raggiungere i loro concittadini o semplicemente la libertà al di là del muro di cemento armato. Ma le inflessibili guardie della Stasi e la polizia politica tedesca non fanno sconti. Il muro rimane per decenni un simbolo di dolore attorno al quale si attorcigliano le vicende più significative della politica internazionale. Alcuni importanti presidenti americani, ad esempio, esplicitano la loro dottrina anticomunista proprio davanti alla raggelante divisione del cemento armato, come Kennedy. Ich bin ein Berliner. O Ronald Reagan nel 1987. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Allora a questo punto ci chiediamo come si arriva a quegli eventi festosi del 1989. Cosa innesca il germe del crollo del muro, le premesse per quella giornata di festa e di libertà? La causa occasionale è nota e molto precisa. L'Ungheria, che apparteneva agli stati del blocco di Varsavia, decide di aprire i propri confini con l'Austria. Migliaia di cittadini ungheresi si possono riversare nei paesi occidentali. Non solo, però. Dato ancora più importante, attraverso lo Stato ungherese tutti i cittadini dell'Europa dell'Est possono giungere in Europa occidentale. Si è aperta così una breccia nella contrapposizione tra i due blocchi. Yes, we'd love to see your microfilm. We're dancing on the Berlin Wall. Dancing on the Berlin Wall. Thank you. Il crollo del muro è una crepa enorme. Equivale alla frantumazione di una diga per l'intera Europa dell'Est, che la Germania orientale tenta di chiudere con modalità brutali e improvvisate. Fa rientrare su treni blindati tutti i propri cittadini che attraverso l'Ungheria erano giunti in Germania occidentale. Si scatena il finimondo, proteste su proteste. È un palliativo sterile ed effimero. Poco dopo, il regime della DDR cede e il muro crolla, portando le Germanie verso l'unificazione. La storia avanza a velocità incostante e di colpo, in pochi e intensi giorni, si possono cancellare decenni di immobilismo. Così il muro di Berlino, aperto ieri quasi a sorpresa dalle autorità della Germania Est, si è sbriciolato come colpito da una fulmine. Dopo le prime libere elezioni in Germania orientale, i territori della Germania Est diventano Länder e confluiscono in quella occidentale. Una delle più grosse anomalie dell'Europa della Guerra Fredda rientra e scompare. Questo vento di rinnovamento soffia da tempo in tutta l'Europa orientale. La Romania di Ceausescu era capitolata l'anno prima. In Unione Sovietica la politica di Gorbaciov, la perestroica, sta portando lentamente verso la democrazia. Il disfacimento del blocco sovietico è rapido e inesorabile. Con la storia di oggi vogliamo raccontarvi un incrocio che di fatto rende possibile questo rinnovamento democratico, dando a esso un contributo di importanza capitale. Per farlo dobbiamo abbandonare le ampie vie di Berlino, il suo profilo sontuoso e affascinante, e dobbiamo recarci a Danzica, in Polonia, sul Mar Baltico, una splendida cittadina che conta meno di un quarto degli abitanti di Berlino. Sembra incredibile, ma tutto ha inizio da qui. La Polonia è uno stato che occupa una posizione delicatissima in Europa, incastonato tra mondo occidentale e orientale e sospeso tra Germania, ex Cecoslovacchia, Repubbliche Baltiche e Russia. Forse per questo motivo nella sua storia è sempre stato oggetto di contese e vittima di invasioni. E forse per questo ha mantenuto un orgoglio e una forza straordinarie. Nel corso del Novecento, la Polonia ha prima vissuto l'efferata invasione da parte della Germania nazista di Hitler. Come io stesso, sono pronto a dare la mia vita in qualunque momento. Chiunque me la può prendere per il mio popolo e per la Germania. Così pretendo la stessa cosa da ogni altro tedesco. Ma chi crede di potersi opporre a questo imperativo nazionale in modo diretto o indiretto sarà abbattuto. I traditori non possono aspettarsi altro che la morte. Se la nostra volontà sarà così forte che nessuna avversità potrà piegarla, la vostra volontà e l'acciaio tedesco domineranno qualunque evenienza. Germania, vittoria, evviva! E poi dall'Unione Sovietica di Stalin, che si spartisce con il governo nazista lo Stato polacco. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Polonia finisce sotto il controllo e l'ingerenza diretta dello stalinismo. In altre parole, entra nella cosiddetta cortina di ferro. Come abbiamo detto, Danzica è una piccola città polacca sulle rive del Mar Baltico. È per la precisione la sesta città polacca. Ma già nel 1976, quando prende corpo la storia che andiamo a raccontare, è il primo porto della nazione polacca. Non solo. A Danzica hanno sede gli impressionanti cantieri navali che il regime comunista ha potenziato a dismisura. Qui dal 1967 lavora come elettricista un giovane impiegato nato in provincia di Varsavia. Uno che lavora duro, che non si tira indietro, che non si risparmia, ma che si è formato negli anni delle idee ben precise sulle condizioni dei lavoratori nel cantiere e che vuole lottare per cambiarle. Il suo nome è Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. I cantieri navali di Danzica sono un paradosso del comunismo. Sul piano ideologico, infatti, il comunismo nasce come un modo di vedere il mondo che dovrebbe tutelare i più deboli, gli sfruttati e soprattutto i lavoratori. L'enorme cantiere di Danzica è invece un tempio del sopruso e dello sfruttamento, e il giovane Wałęsa, insieme ad altri, decide di ribellarsi a questa condizione, reclamando uno dei diritti basilari negati nel blocco sovietico, il diritto di sciopero. È una situazione che deve assolutamente cambiare. Non possiamo rimanere più indifferenti davanti a una condizione che è più simile a quella di bestie. Nel 1970, Wałęsa, a soli 27 anni, si mette alla testa di un movimento di protesta dei lavoratori del cantiere. Esorta i compagni a resistere, a barricarsi. La protesta, una delle prime in Europa orientale, dura pochissimo perché l'intervento delle truppe del regime non si fa attendere. La polizia spara sui manifestanti e fa 80 morti. Wałęsa invece fa un anno di prigione, che non smussa però il suo carattere. Quel primo periodo che ho trascorso in carcere mi ha assolutamente rafforzato. In quel primo sciopero ero finito più per una questione di istinto, perché sentivo che era giusto lottare per quella causa, ma non comprendevo a fondo il perché. In quell'anno ho avuto modo di riflettere e lì sono nate tutte le mie convinzioni. Wałęsa esce dal carcere e passano 6 anni. È il 1976. L'elettricista polacco finisce di nuovo nei guai perché raccoglie firme per le petizioni a favore di un monumento per i lavoratori uccisi nel 1970. Viene licenziato in tronco e messo sulla lista nera dello Stato, per cui gli è impossibile trovare un altro lavoro. In quegli anni sono stato fortunato ad avere così tanti amici intorno, che mi hanno aiutato moltissimo, soprattutto economicamente, con prestiti, regali. È stata la mia fortuna. La fortuna della Polonia è che le idee di Wałęsa si fortifichino ulteriormente. L'operaio inizia a sognare uno Stato libero, aperto, in cui poter vivere in libertà. Riflette e prende contatti fino al 1980. In quell'anno, per i lavoratori polacchi, scatta un altro sciopero. Solidarność, questa è la parola che Wałęsa utilizza per il suo movimento di protesta, che diventa presto un movimento politico. Vuol dire solidarietà, quella che egli stesso ha imparato sin da piccolo dai suoi genitori, che erano contadini nelle campagne intorno a Varsavia. Quella che ha imparato sul posto di lavoro tutti i giorni, quando viene sfruttato e vessato, costretto a subire soprusi e ad assistere ad altre ingiustizie. Il comunismo è caduto proprio in quel 1980, quando per la prima volta abbiamo portato via al regime la propaganda. Fino a quel momento, tutte le volte che i popoli hanno cercato di liberarsi, il potere, dopo aver risposto il più delle volte con la violenza, ha sempre cercato di distruggerci, spesso con successo, usando la propaganda, organizzando contromanifestazioni orchestrate dall'alto per poter definire l'opposizione una ridicola minoranza insignificante. Riuscivano sempre a metterci in un angolo. Nel 1980, per la prima volta, abbiamo dimostrato alla nazione e al mondo che eravamo più numerosi di loro, che loro non ci avevano mai rappresentato e mai lo avrebbero fatto. La causa occasionale di quello sciopero è la morte di uno dei lavoratori del cantiere. Ancora una volta scoppiano rivolte per protestare contro le condizioni bestiali in cui gli operai sono costretti a lavorare. Wałęsa, che in quei cantieri non lavora più, consegna al mondo un'immagine indimenticabile. Scala illegalmente il muro del cantiere stesso, ci si mette sopra, seduto, e grida ai suoi ex colleghi di non avere paura. Solidarność entra in campo. Il regime non fu in grado di organizzare nessuna contromanifestazione e controinformazione. Questa è stata la prima sconfitta del comunismo. Poi c'è stata la seconda. Per la prima volta in un paese comunista era nata un'organizzazione legale indipendente dal partito. Dopo le altre nazioni ci hanno seguito e hanno buttato giù il muro, ma solo dopo che i polacchi hanno stretto i denti e anche nei momenti più duri non hanno ceduto su quei due punti. La liberazione della Polonia, la strada che porta da Danzica a Berlino, inizia qui, ma è ancora molto lunga. In ogni caso, questa prima affermazione dà la scossa e l'energia giusta in tutta l'Europa dell'Est per iniziare un processo che si completerà solo 9 anni dopo e sarà un percorso complesso e tortuoso. Per riuscire a compierlo, però, Wałęsa ha bisogno di una spalla. Un aiuto importante in una dialettica grande-piccolo che conduce da Danzica fino alle soglie di una grande capitale europea, fino a un altro polacco illustre. Un incrocio di vite che scopriremo tra poco. A destini incrociati, siamo partiti dal 9 novembre 1989, data della caduta del muro di Berlino, dal crollo del comunismo. Per comprendere meglio le radici storiche di un evento così rivoluzionario, abbiamo fatto un passo indietro e siamo arrivati a Danzica, in Polonia. Qui, all'inizio del 1980, un operaio, Lech Wałęsa, guida uno sciopero rivoluzionario nella storia dei paesi comunisti, il primo che da semplice protesta locale si espande e diventa una sommossa nazionale, la prima crepa nella cortina di ferro. È l'inizio dell'emancipazione della Polonia, sicuramente l'inizio del crollo del comunismo. Perché la politica di Wałęsa ottenga risultati, però, negli anni successivi è necessario il supporto di un altro polacco che potremmo definire di successo. Un altro baluardo della lotta al regime di Mosca, che però non si trova in Polonia, si trova a Roma. E il suo nome è Karol Wojtyła. Karol Wojtyła. Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio mi corrigerete. È un pezzo di storia, data 16 ottobre 1978. Dopo la scioccante morte di Papa Luciani, Karol Wojtyła sale al soglio pontificio. È il Papa polacco, il vescovo dell'anticomunismo. Il suo discorso, la sua stessa figura affacciata al balcone di Piazza San Pietro, sembrano una rottura radicale col passato. Wojtyła si presenta come un uomo giovanile, forte, fiero. Chiede alla folla di fedeli che sta sotto di lui di correggerlo, demolendo la percezione di infallibilità del Papa con poche, semplici parole. Parole da cui emerge tutto il suo incredibile carisma. Scopriamo insieme qualcosa di più su questo Papa venuto da lontano. Il giorno della sua proclamazione, Wojtyła ha 58 anni. È nato infatti il 18 maggio 1920 a Wadowice, città posta tra Cracovia e i Carpazi. È il terzo figlio di Emilia e Karol, un ex militare dell'esercito asburgico. La sua infanzia è tutt'altro che semplice e felice. Nel giro di poco tempo perde la madre e i fratelli e rimane solo con suo padre. Come per molti polacchi, gli anni più duri però per Wojtyła sono quelli della Seconda Guerra Mondiale, dell'invasione nazista prima e di quella russa poi. Wojtyła è costretto ad abbandonare gli studi universitari di filosofia, costretto a lavorare. Riesce miracolosamente a salvarsi dal terribile 6 agosto 1944, il lunedì nero della Polonia. In quel giorno a Cracovia, i nazisti deportano tutti i giovani maschi per interrompere le continue insurrezioni. I nazisti perquisiscono l'appartamento in cui si trova Karol Wojtyła. Il futuro Papa riesce miracolosamente a salvarsi nascondendosi dietro a una porta. Scappa poi nell'arcivescovato e rimane lì fino a quando i nazisti lasciano la città. Adam Stefan Sapieha. Forse il nome non vi dice nulla, ma è l'arcivescovo di Cracovia. È lui che ordina sacerdote Karol Wojtyła il 1 novembre 1946. La sua ascesa negli ambienti ecclesiastici è folgorante. Eccezionali il suo carisma e la sua presa sulle folle. Inoltre Karol non perde mai di vista la lotta contro il regime liberticida sovietico. Così si reca a Roma per completare gli studi. Tornato in patria, diventa docente universitario di etica e teologia a Lublino prima e a Cracovia poi. Il 30 dicembre 1963 Papa Paolo VI lo nomina arcivescovo di Cracovia. Ha solo 43 anni. Come giovanissimo arcivescovo, Wojtyła partecipa al Concilio Vaticano II e dà un contributo fondamentale a una delle svolte storiche della Chiesa Cattolica inaugurata qualche mese prima da Giovanni XXIII. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo, e neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. A Cracovia si distingue per la sua attività di opposizione al regime comunista. In particolare fa pubblicare a puntate nel suo giornale diocesano alcuni libri usciti all'epoca e colpiti dalla censura comunista. Tra questi, Ipotesi su Gesù di Vittorio Messori e Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci. Grazie a Karol Wojtyła, in questi anni, la Chiesa in Polonia diventa uno dei principali nemici del regime comunista. Wojtyła, da arcivescovo, la guida con passo sicuro, forte della conoscenza del mondo moderno che ha acquisito durante il suo corso di studi, ben più radicata nella realtà di quella di molti altri sacerdoti più anziani sia anagraficamente che nello spirito. Wojtyła si lega subito all'altra figura di riferimento della ribellione polacca, Lech Wałęsa. Negli anni 70, durante i primi scioperi degli operai di Danzica, gli fornisce appoggio concreto e anche morale, un appoggio destinato a crescere nel tempo. Il destino rende ancora più forte il sodalizio tra quell'umile e combattivo elettricista e Wojtyła. Lo fa nella maniera più inaspettata. Il 6 agosto del 1978, infatti, il Papa Paolo VI muore. Ho qui sotto gli occhi adesso l'annuncio ufficiale letto dal vice direttore della sala stampa, che vi dicevo, del Vaticano, ai giornalisti. Erano le 21:44, suona così. Con profonda angoscia e commozione vi devo informare che il Papa Paolo VI è mancato alle 21:40 di questa sera, 6 agosto del 1978. Poco tempo dopo si riunisce il conclave. Alle 19:31 del 26 agosto 1978 si aprono le vetrate della loggia centrale della Basilica Vaticana. Dopo solo 4 votazioni viene scelto il successore di Paolo VI. Habemus Papa! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Lucem. Marciani. A quel conclave partecipa anche Wojtyła, che raccoglie qualche preferenza. Viene scelto però Albino Luciani, patriarca di Venezia, considerato un pontefice giovane in confronto ai suoi predecessori con i suoi 65 anni. Wojtyła, che di anni ne ha 58, forse immagina di partecipare a un altro conclave nella sua vita, ma certo non si aspetta che possa avvenire solo un mese dopo. Invece il 28 settembre 1978, dopo solo 33 giorni di pontificato, Giovanni Paolo I muore. Nell'ottobre del 1978, Wojtyła torna in Vaticano per prendere parte al secondo conclave in meno di due mesi. E questa volta il prescelto è lui. Ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre. Quest'uomo, dal portamento irrituale sin dall'inizio, con quel discorso in italiano e con il latino accuratamente evitato, è destinato a rivoluzionare e a svecchiare la percezione che della Chiesa e del Papato ha il mondo contemporaneo. Ma soprattutto, ed è ciò che ci interessa oggi, diventa un alleato fondamentale per Wałęsa e per la sua lotta al comunismo. Tra poco, a Destini Incrociati. Le crepe che hanno portato al crollo del muro di Berlino partono da lontano, dalla Polonia, da Danzica, dove Lech Wałęsa infligge i primi duri colpi al comunismo con gli scioperi nei cantieri navali di cui si fa promotore, e da Cracovia, da dove muove i primi passi Karol Wojtyła, un uomo di chiesa che nel 1978 diventa papa. E può intensificare la sua strenua lotta al regime sovietico aiutando Lech Wałęsa. Senza Giovanni Paolo II non ci sarebbe stata né Solidarność né la liberazione della Polonia. Così si è espresso in tempi recenti il leader di Solidarność, e ha ragione. In uno dei primi fra i suoi numerosi viaggi pontifici, Giovanni Paolo II torna in Polonia. Un segno forte per lui che aveva trasformato la Chiesa polacca in un fiero avversario del comunismo. Il Papa si reca in Polonia dal 2 al 10 giugno del 1979. È una visita straordinaria. Si temono tensioni politiche, scontri. Invece il regime, per la prima volta, semplicemente scompare all'orizzonte e lascia il palcoscenico al grande Papa e al suo messaggio di pace. Qualcosa si mette in moto. Tra gli sguardi incantati, colmi di speranza che si posano sul Papa quel giorno, c'è anche quello profondo e fermo di Wałęsa. I suoi occhi si fanno largo tra la folla, cercano quella figura carismatica. Il 1980 è l'anno giusto per Solidarność. Wałęsa diventa il leader di un nuovo sciopero nei cantieri navali della città portuale. La differenza stavolta è che la protesta si diffonde in tutto il paese e diventa il primo sciopero generale nella storia del blocco di Varsavia. Oggi è un giorno decisivo. È il giorno di Solidarność, il primo sindacato della storia del nostro paese. Il governo comunista reagisce facendo delle concessioni. Permette la nascita di una organizzazione legale di sindacati veramente liberi. Wałęsa ne è presidente. Giovanni Paolo II non perde l'occasione per sottolineare il suo favore rispetto a quanto sta accadendo nel suo paese e convoca Wałęsa a Roma. Le ginocchia tremano al sindacalista polacco mentre percorre i corridoi della Santa Sede. È uno dei momenti più emozionanti della sua vita, l'incontro che gli dà forza e rinvigorisce le sue energie. I due si parlano a lungo in privato. Nessuno saprà mai esattamente quello che si sono detti, ma certamente da quell'incontro, da quel faccia a faccia, nasce un patto morale che avrà la forza dirompente di sgretolare gli ultimi soffi liberticidi dei regimi comunisti. Una conferenza stampa annuncia alla comunità internazionale il loro incontro ufficiale, che attira sul leader polacco le ire del regime, che nelle retrovie prepara già la repressione. Il segretario del Partito Comunista Polacco Jaruzelski dichiara uno stato di legge marziale, mette Solidarnosc fuori legge e Wałęsa viene internato per 11 mesi nella Polonia del Sud-Est, vicino alla frontiera sovietica, fino al 14 novembre 1982. Quando viene scarcerato, viene rimesso nella sua vecchia posizione di elettricista in cantiere. Il percorso di liberazione sembra arrestarsi, ma è qui che interviene Wojtyła. Prima esercitando la sua influenza perché a Wałęsa venga assegnato il premio Nobel per la pace, che arriva nel 1983 e riporta su Solidarnosc l'attenzione del mondo. Va a ritirarlo la moglie di Wałęsa per paura che il marito non venga fatto rientrare in Polonia. E non è finita. Giovanni Paolo II fa in modo che la Chiesa finanzi il movimento di Wałęsa, che nell'illegalità continua la sua lotta. Sono le 17:22 del 13 maggio 1981. Il pontefice si trova su una jeep scoperta e sta percorrendo Piazza San Pietro per un'udienza generale. Due colpi di pistola scuotono il mondo. Il Papa viene trasportato in ospedale d'urgenza. È ferito a una mano e all'addome. Grazie a un intervento di 5 ore e 30 minuti, riesce a sopravvivere. L'attentatore si chiama Ali Akca. Akca è un killer professionista turco. Benché venga immediatamente catturato, la verità sull'attentato non emergerà mai. La versione più accreditata porta indubbiamente oltre la cortina di ferro. Le parole di quel papa polacco scuotono il mondo comunista e a Mosca si teme il peggio. Un'altra attestazione della forza del messaggio di Giovanni Paolo II. Grazie al supporto di Wojtyła, nel 1988 il sindacalista ottiene la riammissione di Solidarnosc nella legalità, grazie a uno sciopero di 80 giorni. Alla tavola rotonda con il governo comunista, Lech Wałęsa ottiene di più. Ottiene le prime elezioni libere della storia della Polonia comunista e ottiene di poter partecipare con la sua Solidarnosc. È di fatto l'inizio della fine del comunismo. Eravamo desiderosi di voltar pagina. C'era una tensione evidente in noi di sviluppare azioni dedite alla vendetta, per chiudere i conti con il comunismo. Ma il buon senso vinse. Grazie al senso cristiano del perdono e della speranza, che ha aperto un nuovo capitolo della storia della nostra nazione, senza dover ricorrere al sangue. Quello che segue è una catena di eventi nota e rapida. Le elezioni vengono organizzate, Solidarnosc le stravince. Un anno dopo, nel 1990, Wałęsa sarà presidente dello Stato polacco. Nel frattempo, gli altri stati comunisti intraprendono lo stesso percorso. L'apertura delle frontiere fra Ungheria e Austria provoca una reazione a catena che porta alla magica notte del 9 novembre 1989. Tanti giovani. Giovanissimi in festa che dell'Occidente, della libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori. Guardate questo fiume di folla che passa sotto gli occhi dei Vopos, la famigerata polizia del popolo che tante volte ha sparato per impedire l'attraversamento del muro. Da Piazza San Pietro, con il suo sguardo sornione, Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, osserva questa scena con gioia e con un profondo senso di liberazione. Una delle sue battaglie, quella che aveva combattuto sin da piccolo per la libertà del suo paese, è vinta, grazie alle sue parole carismatiche e alla determinazione del suo fedele alleato, quel piccolo e baffuto elettricista di Danzica. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini.